Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati alle puntate estive di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Da luglio a metà settembre vi facciamo riascoltare alcune tra le storie più belle e significative andate in onda nel corso dell'ultima stagione. Storie di giovani espatriati al lavoro ai quattro angoli del pianeta. Storie di under 40 che ce l'hanno fatta e hanno un messaggio preciso da lanciare all'Italia, paese che hanno lasciato in cerca di migliori opportunità. Tra poco ascolterete qual è questo messaggio. In questa prima puntata della serie estiva torniamo a Strasburgo, città dove abbiamo ambientato anche quest'anno una trasmissione speciale a conclusione della nostra iniziativa Giovani Talenti in Europa. Nell'ultima stagione vi abbiamo fatto tappa a maggio, neppure due mesi fa dunque, per raccontare la storia di giovani professionisti under 40 al lavoro tra Bruxelles e il capoluogo alsaziano. Mi chiamo Elisa Reschini, ho 33 anni, vengo dalla provincia di Macerata, mi sono trasferita per la prima volta nel 2003 a Parigi per poi trasferirmi a Bruxelles e attualmente sono funzionaria del gruppo della GUE NGL, il Parlamento Europeo. Sono Guido Putillo, 38 anni, sono di Bologna, ho lasciato l'Italia nel 2001 per fare un dottorato negli Stati Uniti, in Maryland. Dal 2005 al 2011 sono stato in Austria e dal 2012 sono professore di fisica all'Università di Strasburgo in Francia. Io ne approfitto per salutare anche Pietro Naioleari, che purtroppo per un previsto dell'ultimo momento non è potuto essere con noi, ci doveva essere anche lui, foto editor al sito internet dell'Europarlamento, ma sicuramente avremo occasione poi di tornare a parlare con lui. E inizio con una domanda generale rivolta a entrambi, una domanda di tipo logistico. Dovendo scegliere per vivere e lavorare una tra le due capitali europee, quale consigliate, la belga Bruxelles o la alsaziana Strasburgo? Elisa? Io direi Bruxelles, Strasburgo risulta essere un po' troppo piccola per i miei gusti. Io ho già scelto, vivo a Strasburgo da 3 anni e è una piacevolissima città secondo me dove vivere, e anche una serie di culture e lingue diverse. È interessante, insomma, avete due visioni diverse. E quanta Europa intesa come ambiente internazionale si respira tra Bruxelles e Strasburgo, Elisa? Beh, Bruxelles è una città chiaramente molto internazionale, dove la maggior parte delle istituzioni europee hanno la propria sede. Noi del Parlamento ci trasferiamo a Strasburgo solamente una volta al mese, quindi Strasburgo per me è una città che non conosco affatto. Sentiamo Guido, allora spiegacela tu un po'. Beh, Strasburgo è fisicamente posta al confine fra Francia e Germania e è dal centro dell'Europa, quindi diciamo che ha una vocazione europea molto evidente. In più c'è il Parlamento Europeo, una grande università internazionale, quindi direi che per una città che tutto sommato di medie dimensioni è sufficientemente cosmopolita. Allora, partiamo con le vostre storie. Cominciamo con Elisa, iscrizione a economia aziendale alle spalle, poi periodo di interruzione degli studi, anche di riflessione se vogliamo col trasferimento a Liverpool. Allora, quanto è stata fondamentale quella pur breve esperienza in Inghilterra nell'ottica della tua carriera successiva? Ma per me Liverpool è stato un momento in cui ho compreso quanto l'inglese fosse importante, quanto io dovessi imparare l'inglese, e questa è stata la prima base per poi sviluppare quello che è un percorso strettamente internazionale che ho poi sviluppato. E Guido, per te un percorso tra virgolette più tradizionale. Nel 1995 ti iscrivi alla laurea in fisica all'Università di Bologna, e cosa ti ha spinto verso un settore così particolare? Allora, la fisica si occupa dei fondamenti della natura e delle sue leggi, quindi diciamo la base anche materiale per sviluppo di tecnologie eccetera. E allora, premesso che poi Elisa hai trovato la tua strada di studi con una successiva iscrizione alla facoltà di scienze internazionali e diplomatiche, allora chiedo a entrambi un giudizio sulla qualità dell'istruzione universitaria in Italia. Allora, che voto assegnate ai nostri atenei, Elisa? Io trovo che, perlomeno per la mia esperienza specifica, lo trovo molto elevato, direi quasi un 8 su 10. Quello che manca, perlomeno nella mia esperienza, è stato un rapporto con quelle che possono essere il mondo lavorativo diretto. Ma a livello di formazione, io ho avuto una formazione che, devo essere sincera, è molto superiore rispetto a quella che poi ho ritrovato in tanti altri colleghi di altre nazioni. Guido? Secondo me l'Italia ha un livello di ricerca scientifica e istruzione elevate, con università che sono in media di buon livello. Però il fatto che i punti di vera eccellenza e innovazione sono piuttosto limitati, che è testimoniato fra l'altro dalla carenza di premi Nobel negli ultimi decenni. Quindi diciamo, se vogliamo prendere un voto, direi magari 7. Entrambi poi avete studiato in vari stadi a vostra carriera anche all'estero. Allora vi chiedo quale differenza avete notato nelle modalità di insegnamento universitario. Io la mia esperienza è stata quella prima di un Erasmus e poi di un master, sempre in Belgio, e in entrambi i casi ho notato quello che era un minore interesse per la teoria, un maggiore interesse per quello che erano i case studies, soprattutto nell'ambito del mio master. Quindi sicuramente un rapporto diretto con la pratica, ma forse una mancanza di base teorica. Guido? Secondo me, per quel che riguarda la formazione di base, in generale in Italia c'è un'attenzione penso alla parte teorica e meno alla parte pratica e poca attenzione al mondo del lavoro reale. Per quel che riguarda l'istruzione avanzata, il PhD, che è quello che diciamo mi riguarda di più, per ogni PhD ogni paese ha le sue particolarità e nel sistema americano questo è visto non solo come un titolo ma anche come un periodo di crescita e questo è riconosciuto dalla società, questo tipo di sforzo individuale, e viene riconosciuto anche, tipicamente sbocca nel raggiungimento di posizioni di lavoro di alto livello anche al di fuori dell'ambito accademico. Elisa, già prima della laurea, poi ottenuta col massimo dei voti, beh, lo dici tu stessa, la sedentarietà non ha mai fatto per me, ti trasferisci in Francia. Hai mai provato a cercare impiego in Italia prima di levare le ancore? Beh, in Francia io ho svolto un'attività lavorativa molto banale, però in realtà non ho mai cercato veramente lavoro in Italia perché il mio percorso di studi era prettamente internazionale. Guido, la tua carriera passa per un PhD, l'hai detto anche tu, in fisica all'Università del Maryland, specializzandoti in meccanica quantistica. Perché la scelta di andare fin negli Stati Uniti e quale ambiente di lavoro e scientifico vi hai trovato? Volevo fare un'esperienza di ricerca all'estero e in particolare il Maryland aveva appena ottenuto un premio Nobel in fisica, nel tipo di fisica che mi interessava, per cui era una scelta naturale. In più negli Stati Uniti ci sono regole di selezione dei candidati di PhD che sono dure, però sono anche chiare e vengono applicate e tendono a favorire un'internazionalizzazione dello studio. E allora mi aggancio subito, mi piacerebbe chiederti di spiegarci questa meritocrazia all'americana. Tu la sintetizzi bene spiegando il rapporto tra l'ultimo arrivato in Ateneo e il premio Nobel di quell'Ateneo. In effetti uno degli aspetti che mi ha colpito di più e anche incoraggiato fin dall'inizio è stata l'apparente almeno mancanza di struttura gerarchica nei gruppi di ricerca e almeno nel mio campo e anche nei rapporti fra le persone. Per esempio il premio Nobel William Phillips era Bill per tutti quanti. Bene. Quindi il raggiungimento dei traguardi lavorativi era riconosciuto in modo oggettivo indipendentemente dallo status. Un esempio che mi viene in mente è quello di mia compagna di studi che è colombiana, che in pochi anni ha fatto una brillante carriera fino a vincere recentemente il prestigioso premio MacArthur, che come detto è il più noto come Genius Prize, il premio dei geni. Allora questo però è possibile soltanto perché c'è una struttura della ricerca che è formata nel mondo anglosassone per la formazione di gruppi costituiti da giovani ricercatori che sono indipendenti fin dall'inizio della propria carriera, importante. E questo è molto importante dal punto di vista legislativo. Elisa, ti abbiamo lasciato in Francia, ti ritroviamo a un certo punto a Bruxelles, città capitale dell'Europa, sede tra l'altro del tuo Erasmus. La prima esperienza di lavoro è proprio al Parlamento Europeo. Come ci approdi, ma soprattutto che ambiente hai trovato? Ci approdo chiedendo di fare uno stage presso una deputata che all'epoca era la presidente della Commissione per lo sviluppo e poi vicepresidente del Parlamento Europeo. Ci approdo facendo quindi uno stage e poi che si è trasformato in un contratto di lavoro che mi è stato offerto immediatamente. Guido, nel tuo caso il percorso europeo punta in direzione dell'altra capitale dove ci troviamo oggi, cioè Strasburgo. Prima però un passaggio per l'Austria, a Innsbruck, dove lavori come postdoctoral scientist e senior scientist. A Innsbruck, rilevi, ho potuto lavorare in una realtà stimolante e all'avanguardia. Fino a quando, 4 anni fa, arrivi in Francia, come? In Francia sono stato assunto per concorso, rinunciando a offerte che avevo anche in altri paesi. E una delle ragioni che mi hanno spinto a scegliere Strasburgo è stata la volontà che ho trovato a livello universitario, anche a livello di regione Alsazia, di investire nella ricerca e nell'innovazione anche in un periodo di situazione finanziaria non buona. È importante percepirlo, cioè l'attrattività si esercita, l'attrattività di un paese, di una città si esercita anche in questo modo. Sì, facendolo percepire. Si esercita nel trasmettere la volontà di poter costruire qualcosa anche in situazioni difficili, e in effetti questo ci sta permettendo adesso di stabilire un nuovo centro di fisica quantistica a Strasburgo. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono Strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Riprendiamo l'ascolto della puntata di Giovani Talenti e restiamo a Strasburgo. Elisa, anziché restare 10 mesi previsti a Bruxelles, ci ho trascorso più di 10 anni, ci scrivi, anche con un po' di autoironia. In questo decennio hai lavorato per l'Europarlamento e anche per l'ONU. Attualmente di cosa ti occupi? Attualmente sono l'assistente della segretaria generale del gruppo politico della GUE NGL e quindi mi occupo di tutti quelli che sono gli organi interni del mio gruppo politico, ma anche di sostenere quella che è l'attività della mia segretaria generale e del mio presidente all'interno di organi di decisione tra i presidenti dei gruppi politici. Guido, nel tuo caso non solo sei professore ordinario di fisica all'Università di Strasburgo, ma dirigi anche il Quantum Physics Lab. Al di là di questo ruolo di grande responsabilità, mi preme sottolineare come tu abbia ricevuto, per restare in tema europeo, importanti finanziamenti proprio dall'Europa per la tua ricerca. Ci spieghi meglio. Oggi è fondamentale per i ricercatori di trovare fondi di ricerca indipendenti per finanziare le proprie ricerche. Il mio gruppo attuale consiste di di due studenti, dottorato e sei ricercatori postdottorali, che sono interamente pagati attraverso finanziamenti esterni, soprattutto europei. Ora, nel 2012, quando mi sono trasferito a Strasbourg, ho ottenuto due grant, una francese, Chaire d'Excellence, e soprattutto una europea, quella che si chiama la ERC Starting Grant, che ha la durata di 5 anni ed è dotata di un budget fino a 1,5 milioni di euro. Guardare le statistiche relative all'ERC è spesso buono per indicare qual è la salute di un sistema universitario. Per esempio, in Germania ne hanno vinti 70 quest'anno, in Inghilterra 55, in Italia diciamo 11. Per te la nostra domanda di rito, Guido: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va e una proposta concreta da cui ripartire? Io starei nell'ambito dell'università ricerca, che è quello di cui capisco un po' di più. E ci sono due punti chiave. Uno è la mancanza di fondi per la ricerca e per l'università. I soldi necessari per un minimo rinnovamento dei laboratori e per assicurare il minimo funzionamento dei gruppi di ricerca sarebbe una goccia nel mare se si considera il budget e la spesa dello Stato, quindi questa è una questione di scelta e di priorità. In secondo luogo bisogna modificare, secondo me, il prima possibile la tendenza attualmente in atto alla drastica riduzione del personale docente, perché bisogna capire che in questi anni certe università, come ad esempio l'ottima Università di Pisa, poteva assumere un solo professore ogni 5 che andavano in pensione. Questo sta cambiando, ma questo vuol dire che 5 professori ordinari corrispondono a un intero dipartimento. Se si distrugge questo, per ricostruirlo ci vorranno anni, se non decenni, di lavoro, per cui bisogna più presto chiudere questa parentesi di forte riduzione personale. Una maggiore mobilità in entrata e in uscita sarebbe estremamente importante invece per assicurare un ambiente di lavoro attraente e più dinamico. Due rapide domande prima di dare la parola ai nostri ospiti. La prima riguarda il tema della fuga dei talenti o cervelli. Cosa ne pensate? Vi chiedo, al di là della retorica, è un tema così cruciale e vitale per il futuro del paese, o dobbiamo accettare che in un'Europa sempre più integrata, in un mondo più globalizzato, i giovani italiani vadano a lavorare all'estero? Elisa. La fuga dei cervelli è un problema, vuol dire perdere, il paese perde una forza importante, vuol dire che le persone più motivate se ne vanno perché in Italia non trovano una base dove poter poi installarsi. Cosa fare? Bisognerebbe stimolare di più, come diceva, il mondo della ricerca, ma anche il mondo dell'accademia, ma anche i rapporti più diretti con le imprese, delle imprese che a volte non prendono in considerazione quella che è la meritocrazia, ma semplicemente il farsi chiamare da qualcuno per prendere qualcuno degli amici. Chiarissimo, chiarissimo. Guido. Sì, in effetti quello della fuga dei cervelli è un problema, però di nuovo, secondo me, non è un problema se gli italiani vanno all'estero, il problema è che non si attraggono esatto, delle persone. Ora, l'Italia ha una grandissima tradizione culturale e scientifica, un posto unico al mondo e una grandissima fama e stima all'estero, per cui se ci dotassimo di un sistema trasparente, aprendo posizioni di lavoro autonome e strutture di eccellenza, rapidamente si potrebbe diventare un polo d'attrazione di personalità e ricercatori, ma anche di... Venendo invece all'Europa, l'Unione ha cercato negli ultimi mesi di fronteggiare il tema della disoccupazione attraverso programmi come Garanzia Giovani. Ha fatto abbastanza l'Europa, secondo voi, oppure poteva e doveva fare di più, Elisa? La Garanzia Giovani partiva con un'idea molto precisa, cioè quello di permettere il collegamento fra quelle che era l'attività formativa e poi quella che era l'attività lavorativa. In realtà l'Italia si è dimostrata incapace di poterla utilizzare, con dei programmi che vengono divisi a seconda delle regioni, non ben chiari, e quindi in realtà di tutte quelle risorse che sono state messe in campo, che oggettivamente erano sostanziose, alla fine se ne perdono la maggior parte, e quello che va veramente giovani è una minima parte, quindi trovo che questo sia veramente inaccettabile. Guido, il tuo punto di vista esterno? Dal nostro punto di vista come ricercatori, l'Europa sta facendo moltissimo, anche se adesso c'è un dibattito per ridurre il budget della ricerca in giro per l'Europa, e in effetti la ricerca si sta diminuendo. Comunque c'è anche una grandissima volontà di mantenere queste istituzioni di successo tipo l'ERC, ma anche l'Horizon 2020, che è stato appena approvato e adesso sta partendo, e queste sono istituzioni, sono strumenti che sono effettivamente molto molto utili per i ricercatori sia localmente in singoli stati che globalmente in Europa. E con noi oggi anche il primo vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, vicepresidente, posto che la mobilità dei talenti è uno dei grandi successi dell'Europa, non è forse il caso anche di osservare come al momento di questa mobilità poi ne stanno beneficiando soprattutto paesi come Gran Bretagna o Germania a discapito di altri, poiché alla fine si accaparrano letteralmente i migliori cervelli, e questo alla fine va a creare anche uno squilibrio e un depauperamento nei profili altamente qualificati a danno di altri paesi? Ma assolutamente sì, la mobilità non deve essere una mobilità obbligatoria, deve trattarsi sempre di una scelta, meglio se all'interno dell'Unione Europea. Ci sono però dei sistemi per cercare di fare in modo che la mobilità sia equilibrata. Ecco perché nel bilancio dell'Unione Europea c'è un pacchetto che si chiama Orizzonte 2020, sono 80 miliardi di euro per l'innovazione e la ricerca applicata soprattutto all'industria. Perché utilizzare questo pacchetto? Perché noi dobbiamo fare in modo che i giovani che lavorano nella ricerca possano applicare i risultati che ottengono all'interno dell'industria. Altro strumento è quello di Erasmus per giovani imprenditori, che permette ai giovani che intendono fare l'imprenditore di potersi spostare un po' come l'Erasmus per gli studenti e quindi poter utilizzare anche gli strumenti finanziari comunitari per avviare l'attività di imprenditore. Poi magari ritornare forti del risultato ottenuto a casa per applicare le conoscenze, i risultati ottenuti fuori nel paese di origine. Anche perché questa mobilità, ricordiamo, non riguarda solo i ricercatori, ma se guardiamo i flussi, dall'Italia stanno espatriando giovani un po' di tutte le categorie professionali. Ma purtroppo la situazione economica in Italia è negativa, c'è una disoccupazione giovanile incredibile, bisogna fare di più sia a livello europeo sia a livello nazionale, servono riforme, serve credere di più nei giovani, serve dare ai giovani la possibilità di cominciare a lavorare, soprattutto nelle piccole e medie imprese, nel mondo delle professioni, nel settore dell'agricoltura, nel commercio, nell'artigianato. Noi dobbiamo fare in modo che il mondo imprenditoriale possa ricevere sempre più giovani tra i propri dipendenti. Ecco, Garanzia Giovani è stata un'iniziativa di matrice europea. Qual è la sua personale impressione su come sta andando poi effettivamente in Italia? Perché ci sono state anche critiche su come poi effettivamente si è messa in marcia, si è messa in moto. Diciamo un po' debole, siamo al di sotto della sufficienza. Se in 30 secondi dovesse convincere un giovane italiano che l'Europa sta lavorando per lui, in 30 secondi, cosa gli direbbe? L'Europa ha cambiato linea, non si parla più soltanto di sacrifici e di rigore, si comincia a parlare di politica industriale, di politica a sostegno dell'industria, di piccole e medie imprese, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del mondo delle professioni. Non si rinunci a scegliere questa strada, perché noi abbiamo bisogno di giovani che facciano l'imprenditore, che facciano l'agricoltore, ci sono fondi anche per questo, che facciano il professionista. Ci sono opportunità, bisogna saperle cogliere senza, ripeto, mai rinunciare alla speranza di potersi creare un domani migliore. Grazie ad Antonio Tania. Grazie a voi. Ed è tornato a trovarci Bruno Marasara, rappresentante a Milano dell'ufficio dell'Europarlamento. Buon pomeriggio Bruno. Grazie. Bruno, con te chiudiamo questo giro d'orizzonte. Anche quest'anno la partnership tra l'ufficio di informazione del Parlamento Europeo di Milano e Radio 24 porterà 4 giovani ascoltatori in autunno a Strasburgo. Ti chiedo subito, anche perché le abbiamo scelte, come ti sono sembrate le proposte che i nostri giovani ascoltatori hanno inviato negli ultimi 2 mesi a Concorso Europa? Io ho trovato proposte belle e interessanti, però se posso dire che è un po' in linea con quello che sta emergendo dal dibattito, lo ricordava anche il vicepresidente Tajani, c'è poco pathos nella gioventù, allora di oggi. Dobbiamo chiederci perché, non è colpa dei giovani, non è mai colpa dei giovani. Sento fare delle proposte che ripetono anche idee interessanti, utili, le start-up, il collegamento con tra mondo del lavoro e così via. Ci vuole di più speranza e quindi noi dobbiamo lavorare, credo, spero che questa trasmissione e gli esempi che voi portate, non solo oggi ma settimanalmente, stimolino questa speranza, questa voglia di fare. Nei prossimi mesi, appunto, poi annuncerete anche quando la visita al Parlamento Europeo per i 4 che sono stati scelti, 4 invece andranno al Padiglione Europeo di Expo 2015, lo ricordiamo, però per i 4 che verranno qui, anche quest'anno porterete queste proposte ai deputati europei, insomma, gliele presenterete. Certo, certo. Noi lo abbiamo fatto negli altri anni, faremo incontrare questi giovani che peraltro verranno qui insieme ad altri giovani che partecipano ad altre attività promosse dal nostro ufficio, incontreranno i parlamentari europei. Mi ricordo abbastanza bene che l'anno scorso, come i vincitori di Giovani Talenti, hanno potuto interloquire direttamente con i parlamentari. È stata una bella esperienza, insomma, utile anche il contenuto delle loro proposte. Grazie a Bruno Marasà. E per chiudere la nostra domanda di rito, Elisa, quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Io direi di provarci, però di provarci con consapevolezza. Andare in Germania a non saper parlare il tedesco diventa un limite, andare in Francia a non parlare il francese è un limite, quindi partire con un minimo di preparazione, essendo pronti anche a fare qualcosa che non si è sempre disposti a fare, quindi dei lavori di prima mano, delle esperienze che non possono essere subito gratificanti. Però diciamo che dalla mia esperienza all'estero ti dà la possibilità di avere un percorso lavorativo più stimolante di quello che avrei potuto trovare in Italia. terra. Rimani, parto e va a cercare fortuna, pur casaccio che si mangia torno. Non ci trovo mai più quanto ce l'asso. Con me la torre sonare, e lo ricordo re, lo caro amore, occhio era mare e bocca re cerasa. Stipate lo sapore, resti vasi. Pensa c'è, quando tramonta il sole, è nato giorno amore, coppa sta terra re, E per interagire con noi potete collegarvi online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog di Giovani Talenti all'interno di radio24.it. Siamo allo spazio Internective. Ricordatevi che dedichiamo ogni mese uno spazio ben preciso alle vostre lettere on air. Scriveteci nel corso di questa estate le vostre storie in Italia o all'estero, le vostre riflessioni, la vostra voglia di vedere un cambiamento reale ed effettivo nel bel paese. Scriveteci soprattutto cosa ne pensate sulla differenza di opportunità per gli under 40 tra Italia ed estero. Oppure, se vivete all'estero, cosa intendete fare per il vostro o nostro paese nell'ottica di un rientro o di una riconnessione. Leggeremo le vostre lettere nel corso delle prime puntate autunnali. La casella email dove inviarle è sempre giovanitalenti@radio24.it. E ora un appello ai giovani italiani espatriati che ci ascoltano oltre confine su internet e in podcast, o che in queste settimane si trovano nella penisola per godersi delle meritate vacanze sintonizzandosi ogni sabato sugli FM di Giovani Talenti. Siamo alla ricerca di nuove storie da raccontare nella stagione 2015-2016. Se siete under 40 e lavorate all'estero, candidatevi, cerchiamo voi, we want you, siete tutti reclutati. Anche qui la casella email per candidarsi è giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito radio24.it attraverso la funzione podcast. Scaricateci. Noi ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana e buona estate da Sergio Nava.